Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Prosegue la rassegna estiva di Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Oggi torniamo a parlare di design on demand. È la definizione che è stata data a un progetto molto interessante che accorcia le distanze tra ideatore, produttore e consumatore. Per il secondo dei nostri approfondimenti rendiamo omaggio a uno dei grandi maestri della pubblicità scomparso nei mesi scorsi, Emanuele Pirella. Focus sui trend infine dedicato a umorismo e consumi, quando la risata fa tendenza. La borsa della spesa. Ci sono prodotti, aziende, iniziative che riescono a condensare in un colpo solo, per così dire, tutto quello che di nuovo c'è in giro. Quando è così, raccontarle serve a dare forma alle tendenze che interpretano. È quello che abbiamo deciso di fare oggi con Garage Design, un'impresa sperimentale, unica nel suo genere, impegnata nella produzione e distribuzione di oggetti di design in edizioni limitate. Lanciata solo qualche mese fa, sta raccogliendo molti consensi. Prendete un po' di crowdsourcing e consumismo collaborativo, aggiungete un pizzico di filosofia anti-spreco, talent scouting e acquisti collettivi. Condite il tutto con una spolverata di marketing partecipativo e otterrete appunto garagedesign.it, showroom virtuale, web shop e atelier di produzione insieme. Funziona così: i designer spediscono i loro progetti al sito che li seleziona, realizza i prototipi e li mette nella propria vetrina. Fissa poi un numero minimo di ordini, raccolti i quali mette in produzione l'oggetto, per poi consegnarlo direttamente a casa di chi lo ha acquistato. Una sorta di design on demand, come dicevamo in apertura, su ordinazione appunto, in cui ideatore, produttore e consumatore diventano complici. L'idea è di quattro professionisti con il pallino del design: Paolo Braguzzi, manager d'azienda, Tommaso Guerriero, produttore di arredi su misura, Elisa Barbieri e Alessandro Molinari, creativi della comunicazione. Per saperne di più, ne abbiamo parlato con uno di loro, Elisa Barbieri. L'idea alla base del progetto è che tantissime ottime idee di design purtroppo non possono arrivare al consumatore finale perché non corrispondono pienamente alle logiche della produzione industriale. E quindi noi abbiamo voluto dare la possibilità a queste idee di diventare prodotti e quindi di arrivare al loro pubblico. Qualcuno interessato a un design inedito, a un'edizione speciale, a una interpretazione sperimentale del design. Vogliamo descriverne qualcuno? Sono oggetti molto divertenti, oggetti inaspettati, ho letto come definizione in rete. Citiamone qualcuno. Mi piace citare la Lazy Football di Emanuele Magini. È un progetto molto ironico, come dice il nome, è proprio calcio pigro, nel senso che l'ispirazione è nata da questo designer che ha sempre amato molto il calcio, ma non ha mai avuto per vari motivi la possibilità di praticarlo attivamente, quindi si è inventato questo calcio da poltrona. Il risultato è una sedia che incorpora in sé una porta da calcio e quindi, comprate in coppia, danno la possibilità di divertirsi giocando a calcio stando comodamente seduti. Nella sua grande semplicità, io adoro la Siamese Dream dei Dorothy Gray, che è un progetto innanzitutto sostenibile perché nasce senza la produzione di nessun nuovo stampo, ma semplicemente riutilizzando degli stampi esistenti. Quindi noi abbiamo amato anche molto questo approccio al riciclo anche in fase progettuale. E poi perché è bellissima, è una reinterpretazione della classica teiera con due beccucci e quindi in un certo senso ti costringe a bere il tè in compagnia, insomma. Ma cosa significa un modello del genere nel design? Che cosa comporta dal punto di vista delle dinamiche di settore? Lo abbiamo chiesto a uno studioso del design, Fulvio Carmagnola, docente di estetica all'Università di Milano Bicocca, autore di Design, la fabbrica del desiderio. Potremmo definire il modello di impresa che viene fuori da questa iniziativa come una sorta di impresa volante, fluida, anche effimera se vogliamo, ma nel senso buono della parola, che è perfettamente corrispondente a quella retorica dei flussi o della liquidità di cui oggi si parla, insomma. se vogliamo, è un modello di impresa in cui entra la comunicazione, proprio la comunicazione via internet o via mail, come elemento fondamentale della stessa organizzazione di impresa e quindi anche direttamente della progettazione degli oggetti. Io trovo che ci sia una sorta di corrispondenza simbolica, se vogliamo, tra questo modello di impresa e il tipo di oggetti che vengono proposti. C'è una prevalenza della superficie o della gradevolezza e c'è un indefinibile confine tra questa tipologia di oggetti e gli oggetti appartenenti a un dominio tradizionale chiamato arte. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il confine stabilito dalla modernità tra design e arte si corrode. Questo è un dato di fatto di lungo periodo, direi. Cioè siamo fuori, completamente fuori, da quella specie di etica del design moderno basato sul rapporto bellezza, funzione, utilità, su quella opzione morale del gusto. Siamo oltre questo. Però questo pone un problema inevitabile, cioè in che cosa consiste realmente l'innovazione a questo punto? Diciamo il rischio tendenziale è quello di avvicinarsi alla logica del gadget, cioè alla dimensione del carino o, se vogliamo, alla dimensione decorativa del design. Non è un caso che parecchi studiosi di estetica contemporanei lavorino proprio cercando di ricavare nuovamente una distinzione tra l'arte, quello che viene chiamata high art, cioè l'arte effettiva, vera e propria, riconosciuta, istituzionale, e il design, e una dei punti di distinzione è proprio basata su quest'idea che ci sia un elemento di decorativismo che non appartiene all'arte, appartiene invece al design. Che morbido, è nuovo? No, lavato con perlana. Che liquido. È ora di provarlo. Che colori. È nuova? No, lavata con perlana. Ma se è di cotone. Sì, ma perlana non è solo perlana. Un passato come vuoi tu, lo devi prendere, scottare, pelare, passare. Oppure devi prendere Pomì. Da oggi dunque o così o Pomì. Il mio amico. Vorrei rivederlo più spesso. Fa il veterinario in campagna. È lui che mi ha insegnato a riconoscere i sapori veri. Amaro Montenegro ha un sapore che non ti sbagli. Lo riconosci subito. Chiquita, la banana 10 lode. Li avrete sicuramente riconosciuti, erano alcuni degli spot cult ideati da Emanuele Pirella, uno dei più noti pubblicitari italiani scomparso nel marzo scorso all'età di 70 anni. Firmò slogan che sono entrati nel linguaggio di tutti i giorni, campagne di successo diventate veri e propri fenomeni di costume. Pirella è stato definito il romanziere della pubblicità, il copy che ha portato nella comunicazione commerciale italiana lo stile anglosassone, fatto di giochi di parole e dialogo diretto con i consumatori. Ecco come sintetizzava l'arte del claim in una delle sue ultime interviste per la campagna Conai. Beh, ogni volta che si stringe il concetto a uno statement, a una frase abbastanza breve, devo dire che si fa un claim, si fa uno slogan, e quindi anche chi ha scritto Pantarei tutto scorre a quei tempi faceva uno slogan, nel piccolo anche noi. Con Oliviero Toscani, Emanuele Pirella aveva firmato la campagna per i jeans Jesus con gli slogan «Chi mi ama mi segua e non avrai altro jeans all'infuori di me», la celebre foto del fondoschiena più ammirato d'Italia in quegli anni. Campagna che finì sotto accusa, pensate, per oltraggio al pudore. In questi tempi di crisi degli investimenti pubblicitari, Pirella sosteneva il ritorno alla forza dell'idea, al di là dei mezzi. Ecco che cosa aveva detto in occasione di uno degli ultimi festival della pubblicità di Cannes. Ma non c'è dubbio che c'è adesso una ossità, o si cerca di dare maggiore enfasi all'idea che sia neutrale ai media, così si dice, e quindi un'idea che possa, come dire, essere l'origine di tutto e che funzioni anche se fatta con mezzi poveri, perché in realtà insomma, un'idea forte, ma si vede anche nel cinema, un soggetto importante, una sceneggiatura ben scritta e un'idea forte riescono a far successo anche con cinematografie povere o marginali. C'è dubbio che sono sfogli gli annual della Directors Club di anni e anni fa, trova nelle campagne stampa le cose più belle e a televisione, insomma, nelle campagne televisive le cose un pochino più così, tanto che poi a Cannes non vincevano. Andando avanti invece c'è più attenzione alla televisione, la stampa è stata data in mano agli alunni, perché è la cosa più facile da fare. La domanda è possibile che si torni all'idea deflagrante in stampa? Magari, non so, speriamo di sì, mi piacerebbe. Era un grandissimo uomo di marketing, ci dice Milka Pogliani, vicepresidente e direttore creativo esecutivo di McCann World Group Italia. Slogan forti, fortissimi, quelli di Pirella, che tuttavia non mangiavano mai il prodotto, come si usa dire in gergo pubblicitario. Anzi, lo ha sempre esaltato, lo ha preso in giro, lo ha alleggerito, lo ha trattato in modo ironico. È sempre stato però molto coerente, molto preciso, quindi... anche se magari può sembrare una cosa strana, è stato un grandissimo uomo di marketing, ha capito il prodotto, ha capito le marche e ha saputo esaltarle con la parola. Io credo che proprio per fare un omaggio a Emanuele bisogna dire pochissime cose, perché è stato un personaggio che ha viaggiato nella sua vita leggero, senza bagaglio, perché non aveva bisogno di altro, aveva l'amore per la parola, aveva sicuramente una cultura straordinaria e aveva una sobrietà che gli ho sempre invidiato. Era un personaggio molto schivo, credo anche quasi timido, e quindi di pochissime parole. E ci siamo incontrati forse la seconda, la terza volta, e c'era questo grande silenzio, e poi è scattata la molla dell'amore per i libri. Eravamo tutte e due divoratori, e quindi su questo è partita una conversazione straordinaria di così, commenti, autori amati, eccetera, eccetera, ed è nato sicuramente una simpatia molto forte. Ma se non ci fosse stata una molla legata alla letteratura, ai libri, agli autori, forse ci saremmo rimasti lì a guardarci un quarto d'ora e con un grande silenzio. Essere e avere. Legge. Papà, è una facoltà rispettabile. Tesoro, sei arrivata seconda al concorso di Miss Aria delle Hawaii. Perché gettare via tutto? Oh, piccola mia, non hai bisogno di studiare legge. La facoltà di giurisprudenza è per le persone noiose, brutte e serie. La rivincita delle bionde, di nuovo in studio con Essere Avere al film interpretato da Reese Witherspoon. Si sono recentemente ispirati gli organizzatori del festival Go Blonde, che a Riga in Lettonia hanno fatto sfilare migliaia di bionde in tacchi alti per promuovere la 2 giorni di feste e concerti contro il malumore generato dalla crisi nel paese. È il nostro punto di partenza per il focus sui trend di questa settimana, in compagnia come sempre della nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno. Parliamo di umorismo e consumi, di tutti quei prodotti e servizi, cioè che puntano su humor e buon umore per conquistare i consumatori. Un trend che spazia dai consumi culturali al fitness, dove si parla appunto di funny o happy fit, fino alla cosiddetta fan theory, il divertimento che cambia i comportamenti, anche quelli sociali. Patrizia. Sì, humor, ironia, ma anche sorriso per conquistare i consumatori. In effetti il recupero di questi concetti, che sono anche valori ad alto impatto relazionale, tra l'altro iscritti nel DNA della nostra cultura latina, mediterranea, è un recupero oggi molto significativo, poiché in una società in sofferenza come quella in cui stiamo vivendo oggi, il buon umore, il piacere, la risata, ma anche l'ottimismo, assumono un valore cruciale di compensazione, quindi da valorizzare in termini esperienziali, lato consumatore, e su cui puntare lato marca e lato aziende. Quindi ridere in tempi di crisi è non solo una cosa seria, ma anche un nuovo business. C'è bisogno di ridere per stare meglio. Ridere aiuta la produttività, per esempio, il ricorso che molte aziende a livello internazionale fanno a tecniche di supporto delle loro risorse umane come lo yoga della risata e simili sta aumentando, e il motivo è proprio la necessità di potenziare le capacità delle persone di reagire allo stress, di rinforzarne la fiducia, di aumentarne l'efficienza e la produttività, addirittura di modulare il sistema immunitario, quindi benefici fisici. D'altra parte, misurare il benessere di un paese oltre il PIL, oltre il prodotto interno lordo, è un argomento attuale, centrale di molte agende politiche europee e internazionali. Molte commissioni stanno lavorando appunto sul PIL, cioè sulla felicità interna lorda, come tentativo di definire uno standard di vita con indicatori altri da quelli semplicemente economici, compresi appunto il benessere dell'anima. Benefiche dosi di umorismo sono disseminate in varie forme nelle nostre città e ci fanno stare meglio, tra street art e writing, dal famosissimo Pao e i suoi panettoni stradali trasformati in pinguini, ai finti monumenti, alle attività come il Lego fixing, cioè le riparazioni dei muri sbrecciati fatte con i mattoncini di Lego. Quindi l'umorismo educativo, a dimostrazione della teoria appunto che ricordavi anche tu, la fan theory, che l'ironia è socialmente emancipativa, abbiamo dei begli esempi in Nord Europa, come i cestini sonori sperimentati appunto in alcune città, che riproducono amplificato il tonfo dell'oggetto che cade sul fondo, e questo diverte così tanto, incuriosisce, che tutti raccolgono i rifiuti e gli oggetti intorno al cestino e li gettano dentro. Usare lo humor a scopi divulgativi, non solo a livello scientifico, pensiamo a trasmissioni come la Gaia Scienza, ma anche sulla diversità culturale, è l'idea della web miniserie molto interessante in 8 puntate, trasmessa per ora online e che ha già 10 milioni di web spettatori. Si chiama Islam School Welcome, è la storia di due ragazzi e una ragazza, musulmani francesi, che decidono di frequentare un corso in una scuola in Marocco per diventare veri musulmani. L'insegnante, che non è troppo convenzionale, è appunto l'occasione per una bella, interessante autoironia sugli stereotipi religiosi e sociali attribuiti agli islamici, in un gioco di rimandi in cui i ragazzi francesi, molto motivati ad apprendere il Corano, sono più osservanti in realtà del professore, che incarna proprio quelle ambiguità e le ipocrisie su cui si sorride e si riflette molto. Nelle prossime settimane è in programma ad Hong Kong, pensate, la 22esima conferenza internazionale sull'umorismo. Fra i relatori Rino Cerritelli del Centro di Ricerca Umorismo Formazione, prima realtà in Europa che teorizza e applica l'umorismo in ambito formativo. Cerritelli, attore, regista teatrale, docente di risoterapia creativa e gestione comica dei conflitti, è il nostro ospite di oggi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto le voglio chiedere cos'è e cosa fa il Centro Umorismo Formazione. L'obiettivo di Umorismo Formazione è quello di utilizzare l'umorismo, la comicità, come risorsa umana, metterla al servizio della vita di tutti i giorni, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista affettivo, personale, privato o professionale, in tutti gli ambiti dell'esistenza umana. La gente non sa tre cose: non sa che l'umorismo è una risorsa che chiunque per natura possiede, la seconda non sa che è una risorsa che si può allenare, e la terza cosa che è una risorsa fondamentale per la crescita, per la sopravvivenza, quindi per la crescita umana. Ecco, voi proponete l'applicazione dell'umorismo ad esempio in azienda. Ci può spiegare come succede? Voi arrivate lì, parlate con i manager, cosa fate? Quello che facciamo principalmente è quello di vedere come l'umorismo può essere utilizzato prima di tutto per la gestione dei conflitti, che ormai sono sempre più diversi e sono molto stratificati, e quindi la gestione dei conflitti l'umorismo nella gestione dei conflitti è il modo per riuscire a creare una convivenza migliore tra le persone, per capirsi, per apprendere meglio come l'altro vive un conflitto, perché l'umorismo è una comunicazione immediata. Noi praticamente facciamo una parte breve teorica e poi si va molto sulla simulazione, cioè si creano le situazioni conflittuali e si vede come si può uscirne attraverso il conflitto. Ovviamente l'obiettivo non è quello di far ridere, l'obiettivo è quello di vedere come l'umorismo, il percorso creativo che avviene attraverso l'umorismo, può alleggerire le tensioni, e non solo, può anche rovesciare delle situazioni, farle diventare invece delle situazioni positive, delle opportunità. Grazie a Rino Cerritelli per essere stato con noi. Prego, buona giornata a tutti. Patrizia, in che misura la crisi ha spinto in avanti questa tendenza? Dunque, mi viene in mente subito Sarah Jessica Parker, alias Carrie Bradshaw, che alla prima del film Sex and the City 2 a New York era, oltre che bionda, per riprendere un po' il tuo inizio, in un Valentino haute couture lungo di chiffon giallissimo, giallo evidenziatore. Faccio questo esempio che condensa appunto il giallo, la moda e il buon umore, a conferma da un lato delle previsioni della guru delle tendenze del design e della moda Lee Edelcourt della Design Academy di Eindhoven, che un anno fa diceva il giallo sarà il nuovo rosa, per dire quanto sarebbe dilagato. Quindi il giallo, che è simbolo non solo del buon umore ma anche dell'ottimismo, le collezioni moda con tanto giallo che vediamo ora sono state disegnate in piena crisi e ora stanno agendo questo loro effetto benefico sul nostro umore. Questo per dire che un po' tutti i settori si sono poi inventati, anche in questa chiave ironica, un modo per farci stare meglio in tempi di crisi. Pensiamo al concept store temporaneo 8 settimane e mezzo, lo dico in italiano, di Berlino, che ha chiuso tra l'altro a gennaio in cerca di nuova location. Si poteva leggere su uno di quei cartelli a cavalletto che di solito segnalano pavimenti bagnati la scritta Shop the Pain Away, traducendo scaccia il malessere comprando, quindi emblematico per l'ironia sul consumo come dipendenza, sulla compulsione, sull'effetto consolatorio o compensativo dello shopping, che qui si autoprende in giro proprio per l'effetto antidolorifico. Questo è uno dei tanti bei casi di ludismo verbale, potremmo dire, cioè di uso del linguaggio in modo ludico, quindi divertirsi con le parole, che tra l'altro è un vero e proprio genere nella comunicazione pubblicitaria di prodotti commodity. Pensiamo, senza fare esempi specifici, a questo codice trasversale dal caffè, detersivi, al cibo, eccetera. Ed è anche usato dal marchio Italian Independent, il marchio di Lapo Elkan, che ha appena lanciato una linea di t-shirt su cui si trovano delle scritte Just Play, LA Lapers, magliette ispirate ai vari episodi mediaticamente imbarazzanti che l'hanno riguardato, tipo quello appunto della partita di basket dell'NBA, che sono stati trasformati in una nuova narrazione ironica che quindi neutralizza l'impatto negativo di questi eventi originari sull'immagine del personaggio e ne conferma il posizionamento comunque di imprenditore capace e autoironico. È interessante l'uso dello humor in esempi legati a temi difficili, controversi, quali il fumo, l'alcol e la droga, cioè quelli che vengono comunicati con, ahimè, bassa efficacia dissuasiva. E qui l'umorismo può rappresentare una chiave che ne aumenta l'impatto, stimolando l'attenzione di chi legge i messaggi, il fumo uccide, l'alcol uccide, la droga uccide, eccetera, che pare lascino in questa tonalità così denotativa molto indifferenti. I produttori di birra americani hanno deciso, in accordo con la Food and Drug Administration, di inserire nelle istruzioni d'uso alcune raccomandazioni molto divertenti, che sono anche in linea con la mania tutta americana di indicare per qualsiasi oggetto gli usi propri e impropri, per esempio non usare il forno a microonde per asciugare il cagnolino, eccetera. E quindi sulle bottiglie di birra si può leggere qualcosa come: il consumo di alcol è uno dei principali fattori di rischio per sembrare un idiota quando balli fuori tempo in discoteca, oppure il consumo di alcol potrebbe causarti una gravidanza, o ancora il consumo di alcol potrebbe farti sentire invisibile o con superpoteri, ma non è vero, e così via. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Berlino su umorismo, consumi e dintorni? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Bentornata Alessia. Grazie, un saluto a tutti. Dunque, jobsintown.de è una delle più importanti agenzie tedesche per la ricerca di lavoro, che si è sempre contraddistinta per l'utilizzo di campagne pubblicitarie non convenzionali. Una particolarmente riuscita è quella il cui claim recita: la vita è troppo breve per il lavoro sbagliato. Cosa hanno fatto in pratica? Hanno applicato a ogni tipo di distributore automatico, le vending machine che si trovano un po' ovunque, una gigantografia in scala reale che crea l'illusione ottica che in quel distributore l'automatismo sia, come dire, garantito da una persona in carne e ossa che incessantemente lavora per offrirci in tempo reale il prodotto finito, che fa in pratica un lavoro ingrato. Tipo, sul lato di uno sportello bancomat la fotografia applicata ci mostra un cassiere chino sulla scrivania che conta manualmente i soldi che stiamo prelevando, oppure sul fianco di un distributore di caffè possiamo osservare una donna intenta a preparare una moca dopo l'altra, o ancora le macchine automatiche per le fototessere celano al proprio interno un ragazzo che, armato di phone, pazientemente asciuga ogni nostra foto. Insomma, il messaggio arriva forte e chiaro, oltre a strappare più di un sorriso e a indurre contemporaneamente una seria riflessione. Grazie Alessia. Patrizia, riderci sopra come ricetta vincente allora. Sì, andare al di là dei luoghi comuni, usare lo humor come sguardo dell'intelligenza, della verità, nella società della post-crescita, questo è certamente un ingrediente decisivo del nuovo paradigma dei consumi che si va definendo. Essere avere chiocciola radio24.it, scriveteci, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti. Se vi siete persi qualcosa, cliccate su radio24.it. Sezione podcast per riascoltare questa come le altre puntate di Essere Avere. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.